palla. Li vediamo insieme, Cicucci. Attento briciola, su che abbiamo oggi 30 gradi per tutta la giornata. L'emissione di Gianni, dai. Comunque sei più basso il segnale da Taria. Lo credo che sono più basso. C'ho l'antenna in terra, tu. Incapita, ma non era messa a posto. No, che nella scesa era troppo pericolosa com'era. Mi la giù varada, ma cosa? Non andava così. Ha detto che me la fa mettere sul tetto. Quando me la farà mettere sul tetto? Compro le tasse come quelle che ho qua e gli metto solo il palo dell'antenna, tanto è sul tetto e quindi già era abbastanza alta. Da. Una volta che metti sul tetto sei a posto al 100%, allora è un'altra cosa. Avanti, to. Invece me la devo abbrizzare, metterla dritta tutto quanto, metterla in sicurezza. Sì, infatti, la mia era troppo pericolosa com'era, era caginava a cagini da bui, io ho preferito scenderla giù, da chi mi sente per il momento, quando vuol dire che aprirà l'uscita al tetto, la piazzerò come si deve. Vabbè, poi arriva l'ora che più forte, ottimo segnale e più di prima, tutto qua. Gianni, ci sei? Gianni è andato a mangiare qualcosa. Ma tra un po' già arriva anche mia moglie, vediamo un po' quando arriva. mangerò anche io. Da mangiare ho saputo che si è preso una scatola di gelati, eh? Il cavolo. E lui ha detto, quando mi compro la scatola me ne mangio tutti. Se prende la vaschetta non ne parliamo. Se si la buca pizza a letto. Sì, ma la buona glicemia si la fa 5 miglia. Ha detto che poi non mangia niente di e quindi lì scende e fa sale e scende, questa è la talena. Allora dito, sai come ti ha fatto a me, sto mangiando della via a 135, allora di pranzo a 130 nubi, boh, invece da bascia si è già alzata. Io 127 prima di pranzo, no, dopo pranzo, perdono. Ho misurato dopo 2 ore e tiro una cosa, 159, perché è salita se ne... cioè, non ci ho mangiato così nulla, poi verdure, pensa un po', serve i carboidrati e la ragione, ma non l'ho mangiato. Così io ho mangiato verdura il mercoledì, tutto il giorno, all'indomani 135, no, non riesco più a comprendermi nulla. Così, però da lui di due euro alza mai frutta. Ma com'è nato lì che sa ne sente che cosa? Allora, me la misuro la notte, quando vado a letto, di 11:30, e la trovo 125, o 128. Tutta notte mi trovo, lo mangiano per il viso, me la misuro, 170, 165, perché ha di notte iniziata così? Ma è strano, ho una qualche effetto di insulina, diranno tutti, a chi ho l'insulina di abbascia fai forza che andare a mangiare. La vecchia me la metà, la 22 me l'ha messa, e cosa ne so, andava. Comunque, io ho tutto fatto, anche l'elettrocardiogramma la via Rockefeller, e mi ha detto che devo mangiare pesce, giocato, ascolti, dottor, forse è meglio che vado a pescare con le pesce. Anche qui c'è troppo caro. Tutti pensano che vai a morire in addetti. Vabbè. Alle 5 devo andare io a fare la visita. Ho ritirato ieri le analisi. E andrò il giorno 5 lì in via Rockefeller a fare la visita. No, io l'analisi devo fare il giorno 8-10 di settembre. Perché ho la visita il 22 settembre, sempre lì, diabetologia, e quindi devo fare 10 giorni prima circa. Io invece c'ho l'oculista il giorno 5, alle 8. E l'oculista l'ho già fatta a 10, l'elettrocardiogramma l'ho fatto a Sassari. No, io l'ho... mi hanno prenotato, ce l'avevo a ottobre, e invece poi mi hanno dato per il 5 alle 8 il viattimpio. Quando vado a Sassari va bene, capito? A me mi hanno dato il giorno 31 a 10, tanto è vero che io la mattina 31 presto, avevo appuntamento a mezzogiorno, meno 20 a 10. La mattina presto dovrei fare i carabinieri, la dove potevo passare perché c'è stato proprio l'alluvione il giorno 30, capito, di maggio. E mi ha detto, facelo, c'è un 31, e infatti ho fatto così. Siete convenia, fa così. Perché da una parte l'alluvione ha tutto già arrabbiato. E poi, mi vedo meglio, c'è un 31, più perfetto. Avanti, Natali. E cappava la dici in cubidimo, tanto va giù tutto bronzo, quindi non c'è problema. Vado lì, se mi rompe molto le scatole me ne vado a San Camillo, lì con giambami riduttori subito. Perché già mi viene male andare anche in via Rockefeller, invece a San Camillo beh, lo parcheggio in Chivi con la macchina da, e di fronte c'è l'ospedale. Io ho una curiosità, ma il medico di diabetologia, io ce l'ho ricevuto, non lo posso cambiare, fare San Camillo anch'io? Bisogna vedere se ci sono posti, infatti devo chiamare anche io, se ci sono posti me ne vado a San Camillo, per rimanere lì, lui. Mi ha detto Luca che il suo è di lusso il medico. Perché io sono due passi a San Camillo, a me mi conviene. Infatti, tipo se cinghi su parcheggio Manno che vè, è davvero di fronte per un coso, per i pilari. Adesso vedo se mi rompe molto le scatole, prendo e gli dico di cambiarmelo al medico subito, me ne vado a San Camillo e quelli di via Rockefeller se ne vanno dove dico io. Vabbè, giustamente, tu dove lo facerai? Io adesso ce l'ho in via Rockefeller, c'ho la dottoressa Congiu, già è brava, già troppi visiti però mi va di va. Allora ve lo dico, le visite normali e basta faccio io, perché io già non posso camminare, si figuri. L'altra volta quella di Tiesi mi ha ordinato le analisi del sangue che non me ne voleva fare nessuno, mi sono ammazzato a poterli va, e poi non me l'hanno fatti nemmeno tutti l'analisi, a chi dice che non verranno i reagenti, ma vada una fanguala, cosa me le ordini a fare se sai che non me ne fanno? Vabbè, dove tu dove ce li hai? Ci vuole più arroccaffare con coso, oh, non me ne ammetto, mette di giamma, oh, muore, al primo piano, su, cioè, ogni volta mi fa di rivolti quando ando, e io gli voto del capo, gli voto, sì, gli voto. Ma di diabetologia sto parlando, beh. Diabetologia, ma ammetto, mette di giamma, è un po' grosso, Io invece ho la torrosa, può essere Arezzetto, il dottor Facillo. E a me ogni tanto già mi dici cosa, ero avvocata. Oh, se non c'è che dimagrina, potrei questa pancia, io è inutile che vieni qua. E a me se mi rompe le scatole a 6, io me lo giambo e mi trovo a parcheggio qua vicino a due bassi, posso andare pure a piedi per dirti no. E allora, devo fare sempre chilometri, vado a farmi la visita qua. Ma sai cosa ho già detto io? Si manda da che per paese. Oh, tu, il gelato non mangi niente, è che non lo so. No, non ho mangiato gelato. C'avevi una scatola di gelati, metto tu, di magno, magna. No, non mi dici che stava in movimento, vado a guardare la camera anch'io. Gianni. Eia. Dì la verità, quello che hai detto a me, che ti ha preso una scatola di magno e te l'hai mangiati tutti. Ehi, ma in cammino, ma... Penso un po', ma che sono venuti a casa? Ma erano ghiaccioli, non gelati, i ghiaccioli non fanno nulla, il tuo ghiaccio. Ma cosa è il ghiaccio? Il ghiaccio è il secondo pacco, il primo pacco lo magno, e l'hai magnato. Non l'hai mangiato di magno. E poi quello lì era ieri, cosa entra? Oggi non ho mangiato nulla, avevo mangiato... C'ho 125 di glicemia. E te, Natali? Vabbè dai, io me ne vado a mangiare, già entro dopo se ci siete, dai, che è arrivata alla 50. Ok, d'accordo, buon carica Natali, ci sentiamo. Avanti già. Ehi, ciao Natali, buona carica, dai. Avanti tu. Sì, buona carica Natali. Ok, comunque Tony, dottor Francello è quello che c'è tu, c'ho io. Vedi, ci ho mandato anche su Baesi e mi ha detto a risponderlo bene. E io tanto a me mi rompete le scatole. Una volta ho detto, hai fatto il modello, qua e là, ho detto io, mi sono preso un mattaccio di cioccolato fondente. E chi te l'ha ubbiato, dottore? No, io stesso. Mi mia zia me l'ha già ubbiato, mi ha guardato storto, e anche della luce. Sì, a me mi ha detto se ero mangiando cioccolato fondente, che mi ha visto. E ha detto, ogni tanto ci vuole una di quelle. Però a me non piace quello dolce, a me mi piace quello amaro. Il 100%, io ho il 90% come te, io figlio per lo stesso. Ce la piglia luce. E tu già, il cioccolato fa niente, no, poi adesso c'è caldo, non va bene, dai. No, Mara c'è già la vita, io lo prendo dolce. Vai, ti faccio male, fai la bravo. Già, se assaggi quello che mangio io, il cioccolato, amaro, direi che dopo ti piace. Non lo so, perché il gelato, se è fatto col cioccolato amaro, mi piace. Sì, d'estate spazzini, accussimi. E io vabbè, ma plantiamola, ci andiamo, andiamo a sigillare. Ah, c'è Bartone, Gascari, Drummiglio, boh, boh. Vabbè, tu avvisami qualche giorno prima, mi domani avrei già girato, allora va bene. Ma c'è dopo l'ho trovato, Doni, a dottor Fancillo, a 140 grammi. Poi dice cosa lasci. No, già, la battuta tu non l'hai capita. Intanto tu chiama un giorno prima e mi dici, domani andiamo a mangiarci gelato, ok, non di domani, domani no. Quando mi chiamo un giorno prima, così poi io mi preparo, non prendo nessun impegno e andiamo a mangiarci gelato. Quella era la mia discussione. Quando sei libero ci andiamo, non c'è problema. Però vogliamo avvisare prima. Vabbè, tipo se la domanda è capata là, la prossima volta. Sì, vabbè, conosciuta ritorno, mi raccomando, comunque, se io riesco a tutto a farcello, mi dà che mi è antipatico, va. Mannaggia un lato uno, mannaggia un altro lato, che è ancora più peggio. Ah, ma qui giù, ti faccio entrare, ti faccio gettare un quarto d'ora, ti faccio gettare, ma da voi non entri già, la ti libera subito. E invece che tu arrivi all'otto di Marzano, a me non andavo a mezzo lì, me ne andavo, che l'altro. No, non va bene così. E quindi siamo a 140 grammi a magna, puzzinoso, tanto non è vita di nano. Ma ha visto mangiando a me, si è associato. Ha detto, dottor, quando uno ha fame, che sta tutta la mattina senza mangiare nulla, per forza devo mangiare. E così, adesso mi si riesce a sentire il suo apparato. E dove la spina? Devo si calma, così mettiamo anche la tua panacchina che da volta abbiamo l'accento. Ma Natalino l'antenna dice che l'ha scesa. Ha detto che l'ha abbassata. Abbassata, non scesa. Io da là ho capito che l'aveva scesa, l'ha scesa per la battuta. L'ha scesa perché com'era da... ossia che ne cadeva, doveva finire in testa qualcuno e toccava a bagallo. Allora l'ha scesa un po' e l'ha messa un po' dritta. Da com'è già esce bene. Caragara. Ha detto che la fa mettere sul tetto, come apre il tetto, la mette sul tetto, la mette. Ehi, tra di che fare ci passa il mare, quando la vengo qui qui? È un guru. Tu si è poi me. Sono gazzettini che venga qualcuno a aiutarmi. Gianni? Ehi. Come mi ascolti? Con il citofono. Sto usando il palomar. Sono il citofono, ma io lo usavo con un altro microfono, quello lì. E ci va bene. Vabbè, sto usando il palomar per farlo mettere un po' in circolazione, dai. No, adesso sto scendo bene. Prima così, portato a casa. Ehi, adesso vediamo un po'. Ma così mo vedo svizzere qua. No, va bene, sta andando bene. E a Gitto, come ti arrivo? Mi pare 30 un coso, un citofono, mi pare. Ci sente chiaro, Però mi pare un citofono, come microfono. E perché Gianni qua l'ha messo la capsa, ha disintegrato i citofoni di strada, tutti i portoni, ha messo la capsula qua. No, quello è l'originale, Tony. Io le stavo usando un microfono amplificato, andava bene. Condiviso con l'amplificato esce bene. Guarda che quello lì anni fa era un bel apparato. Ecco al fatto, mi sono oi. Dai, sono tornato io. Ma io me lo vedi 20 euro? 20 euro, manco lo spinotto e ci do. Fa la gara. Cane morto, cane. 100 euro la buccia. 200 euro. 200, ragazzi, non ti pare che ti senti? Se è troppo 200 metri allora. Sì, quel giorno l'ho scritto, c'era loro l'apparecchio che stava vendendo, cazzo, costava 179, lo stava vendendo 200 euro a seconda mano. È vero, va bene. Sì, infatti che ho preso c'era loro, mi ha detto no, che era di bronzo. No, questo non sia un microfono già. E questo mi sa che se ne muore con Galaxy. Quello lì se ne muore. Rimane fisso qua, battezzato, la vita moglie. E allora c'è più uno che ti lo compare e glielo vedi subito, non ti conosci. No, no, no. È un microfono con le contrapalle, penso che è piaciuto, me lo sciure. Ma quello non è normale, quello lì l'hanno sicuramente toccato, l'hanno aumentato di potenza. Ma il microfono? È un bel forte, cazzo, Tony, io lo sciure, l'ho sentito mille volte, sì era forte, ma non così. Scusa, è tutto originale qua. Il circuito tu lo conosci, quell'originale, cosa ne sai? Magari hanno cambiato qualcosa nel circuito. No, e cosa l'hai già fatto? Non so neanche se si può fare quello che dici tu. E certo che si può fare tutto. Perché l'MB più 4, se li fa il ponticello, non esce più forte, cazzo. Questo non lo so. Io so che se tocca il baracchino aumentare il PLC, come cavolo si chiama, aumenta di più il radio. Il mio baracchino, questo qua è originale, puro, mai stato toccato. Questo microfono, diciamo che da come me l'ha dato, ho visto che è vecchiotto, ho messo la batteria ed è un mondo. Prova ad andare in FM a vedere come esce con quel microfono. Dai, aiuto. Tipo era forte però strappavi parecchio strappava, non è come una voce che senti in AM. Ma dopo ho aumentato infatti, ma prima ero normale. Ma come ho aumentato strappava ancora di più, strappava, ecco, non è chiara chiara la voce. Ma io non ci muovo mai in FM, non me ne fotti nulla, rimango in AM. Gesù, sì, vabbè. Oh, in SSB mi ascoltavano bene, a bomba proprio. Perché ho fatto un piccolo di essa, la volta era perfetta la radio. Vai nell'SB. Gianni, intanto non te lo do, tu puoi dire che esci male, i notti di dopo. No, non è perché lo vuoi, puoi vedere come è. Eravamo già in SSB la tua volta, avanti, vai nell'SB, uniformo, si era bravo. Sento per niente, 0 porto 0. Santiago 7. E allora è vicino a te. Una cosa vicino a me, se è vicino a me la fotoscala. Attenzione collega, se copri la città di Sassari. Avanti, chi sei? Attenzione collega, Sì, sì. Da dove moduli? Io da Sassari. Sì, di QRZ, sennò no, chi sei? L'hai sentito già adesso? No. Ah, io, che sa, è già una bella posizione, Tommy. Sono vicino a te, Tony, sicuramente, con qualche baracchino portato. Ma c'è propagazione. No, e tu lo senti. Nulla, nulla e nulla. Zero riporta zero. Solo un po' di QRL. Voi siete dentro una campana di urletto. Vabbè, che fa giurante in un po' credo bucata, ma... A me Tonino su niente. No, su queste cose non sogno mai, non preoccuparti. Ho un dito che è una bomba. Datore c'ha l'antenna con i carte verso Porto Torres. Sono ben in forti, verso Porto Torres e Bruchio. Così fai da direttiva. No, io Tony sentivo bisbigliare, ma non capivo cosa dicevo. No, ti giuro già. Guarda fuori giù queste cose io, ho sentito che diceva qualcosa, poi stava chiamando, poi ogni tanto modulava, hanno per voi modulare il ciò. No, ci credo, però magari era con qualche portatile, qualche apparecchio, o qualche antennino che la tua amica da qua, no? Non è buffo, allora pure, che sia in queste campagne, in queste zone, più o meno, a un raggio di 500-600 metri, con portatile, antennino di gomma. E lo percepisco più io che voi. Può anche essere, perché no? Ma non era italiano, come parlava, sembrava, cioè italiano. E un accento sarà di fuori, capito? Non era sassarese. Boh, magari la zona è più favorevole per te che vuoi dire. Sarà un turista che si è portato il baracconzolo là presso. In camper, in camper. Gli si è dato la base di Zussu. Oh, raga. No, rincapperi, rincapperi. Uia, uia. Porca l'età, porca lì. Bubu, andiamo, andiamo. Cuscie, e cuscie rimani. No, devi dire, a cuscie. Oh, sono andato a mettere una vittina allo spinotto, che mi ha preso la vittina dello spinotto. Meno male che ce ne ho molte conservate. E io, quando ho rifatto la saldatura a questo microfono, ti dirò che la vittina piccolissima, piccolissima. L'ha giù messa, non l'ho messo, se la piglia luce. Quella si perde sempre, tu. Sempre, quella non la trovi più. Se la perdi non la c'ha più. Infatti ho messo un fazzoletto bianco, un tovagliolo bianco, quando l'ho smonto, di modo che si veda, capito? E il cacciavite lo passo nella calamita di modo che si attacchi al cacciavite, perché se non ce la fai mai a metterlo. È un casino, eh. Le nuove che stanno facendo sono quelle che hai tra vite, capito? Non più con la vitina in acciaio. Quelle che si avvitano è buono. Ma se la vedi gira tutto il filo. Mori. E tu giri solo quello di sopra, quello di metallo. La plastica dove sono saltati i fili lo tiri fermo. Avanti tu. Infatti i migliori sono quelli adesso. Io ne ho uno, ne ho di quelli lì. Per noi sono i migliori. Perché lo tiene a viti invece di pulirti la viglia. Perché molte volte la vite nell'affare secondo come stringi si spara. Prima facevano anche PL con la vite. Io per esempio il microfono del Galaxy originale ho quella vite. Ma non mi piace né bannuta però a me. Che da stavolta a me mi sei fanata e non voleva rimanere. Ah, mi tocca non ponere appena appena di con la attack. Gianni, oh. Massimiliano, buonasera a tutta la ruota. Mi dà un controllo di questa radio, Gianni? 9.40 Massimiliano, ciao, buonasera, non ti avevo riconosciuto. 9.40, sì, qua, la radio è buona, 5. Dai, la radio mi interessava, il segnale no. No, no, già è buona, dai. Cosa stai usando, se è licito saperlo? Io ho fatto una radio nuova, dai, volevo sapere se andava bene. Ah, cappagappa, dai. No, va bene, Massimiliano. La potente, anche qua il 5 Massimiliano, ciao, ben sentito. Ok, dai, grazie Tonino, scusate l'intrusione, dai, me ritorno a fare un po' quel casino, dai. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao, ciao, vai sul 45, vai, ti ho sentito l'altro giorno. Ho positivo, dai, adesso c'è un po' di propagazione, facciamo un po' di casino. E allora vai di mettiti tranquillo, non c'è problema. Io nel casino non ci sto bene, anche quando sono le feste non ci vado mai perché c'è troppo casino. E a chi si è incasinato, dai, vabbè, non c'entra niente, dai. Ciao, vi saluto, grazie dei controlli, buon consiglio, ci sentiamo, ciao ciao. Ok, ciao Massimiliano, buon consiglio greca, ci sentiamo, avanti Tore. Ciao Massimiliano, alle prossime. Gianni, a te Michelino. Cava cava. Ehi, allora, non c'è problema. Non c'è se problema. Si va, si va. Allora, preparati spalle la prendere già. Cava, mi devo preparare, va. Guarda, poco fa mi sono mangiato un bel magno, ma sarà una mezz'ora fa. Ah, ecco, Paolo, se non vi vuoi andare. Ma io lì non ti faccio mangiare quelli in coppa di 10 anni. Ma io lo so, guarda, piaccio a te. Chi si dà solo di te muore un chilo e mezzo. Con la bandierina. Uia, e te tu cosa mangia Ghiccio, eh? Sì, cosa vuoi fare? Vuol dire che si sente forte lui. Ma è meglio con un po' di dughiese. Ma lui mi piace quando c'è le glicemia. Ti rimane adoro di gabbo. Non vedo che no. L'avevi saputo tu la glicemia come ti piace, dicevi? Sempre 90, 98, 102, 105, ma non di più. Tore, dilli di misurare che si mette davanti a te. A da voi sta mangiando un tazzo di gelato da voi. Questa mi piace. Cos'era, un tazzo di cioccolato? Oppure di quello amaro? Allora, io a me non mi sale più di tanto, perché io tutto il giorno la tengo bella corretta. Se io mangio un gelato, mi salirà un po', ma non mi sale mai a 200, mi salirà a 160, 155, 160, ma non di più. Sempre alza. No, tu hai detto che non è alta. lo so, è alta, però il brutto è quando ti sale dopo i 200. Allora si è pericolo. Invece io ritolgo tutto il cioccolato alla magno e mangio solo la cremuzza dentro e non mi sale molto. A 250, a 270. Ma vai, finestira. Io mi gioco Gianni, che si compare già la carta di gelati, no, a casa non ci arrivo, ma mangio tutti nella strada. Vai, Pinocchio. Tu l'hai detto lì, e poi torno, dico, la sciarpata che ha pigliato via. Ma sono ghiaccioli, non ti fanno nulla ghiaccioli, è ghiaccio. Ma c'è il colorante che fa, ecco cos'è. Il colorante attira. Colorante, zucchero, tutto. Lui si mangia un fizzo alla secca. Bobo, ma se li può fare i casi dell'Araice, Dorino, no? Ma tu già mangi roba bianprosa, magnum, tutta roba a casa di cioccolato, e vai? No, cioccolato lo tolgo io, tranquillo. Io ho già un po' di giorni che mangio verdure, caro Gianni. Cavo fiori fatto in salata, broccoletti, poi spinaci, io mangio leggero. E anche io ho mangiato cavolfiori e salata, anche oggi, hai capito? Di secondo mi sono mangiato una mozzarella, non è che ho mangiato, perché poi col caldo non mi viene voglia di mangiare a me. Oppure mi mangio i petti di pollo, però Gianni, i petti di pollo mi raccomando, quelli senza reggiseno. E anche io mangio quelli, li faccio con i capperi, un po' di origano, due pomodorini di quelli piccolini, di quelli di aggrappolo, e ciliegina, e vai che ce n'è. I capri sono salati, ti fa salire con la glicemia. Devi sapere anche quello, fai da bravo. A pigliarla. Dimmi lo tocco, non mi credi. Fammi vedere di tutti e due. No, io mangio verdure con il gambo. Mangi verdure col gambo. Eh già, almeno così non si affarra. Occhio anche tu con le verdure. Ti puoi mangiare anche i finocchi, sono buoni mi. Il gambo ci siamo prima per. Comunque i finocchi crudi, adesso come tu vai, mi piace un bene a me. Ti sgonfia, lo sai già. Ecco perché sei diventato finocchio. No, io posso finocchio all'asse, mi rimangono i finocchi. Oh, voglia. No, io filocchi di meno, ma zucchine bollite, fate salata, cavolfiori, bietole, tutta questa roba qua la mangio. Sì, io grazie di dare tutti i carboidrati. Praticamente, pane, patate, pasta, lisma, zero, cappuccio. No, zero no. E devi mangiare regolari. Se tu mangi mezzo panino soltanto la mollica è regolare, i carboidrati li devi avere, tutti i nutrienti devi avere, però ridotti. No, già, quando io scendo, come dico io, allora qualche mezzo panino potrei mangiarlo, faranno. Ho eliminato anche le fette biscottate perché mi hanno detto di non mangiare neanche quelle, pensa un po'. Tipo carboidrati, Vittorio. Io mi mangio un pacco di cracker a tavola, posso aver pane. Un pacco di cracker, boh. Se c'è roba succosa, allora mi prendo mezzo panino e lo svuoto dalla mollica. Boh, ho fatto il gioco. E ti fa il panino imbottito? Ah, da grande gioco senza mangiare panino imbottito io. Non so come te si fa la mortadella con la baguette. Brutto. Citrullo che non sei altro, vai, vai. Cascetta. No, non lo sapevi che a farsi i panini con la baguette si mette la mortadella, è una baguette in calda, e si mangia la baguette in tre con tre di mortadella. Ma non te la già uso. La già uso a Tonino, che va via una baguette e un fagiolette di mortadella. Io lascio lì, cascetta. Di lui. Gli altarini come salgo un fu. Sono capitato per caso lì alla coma dalla Pirozzi e che ta c'ha buttone raga. Ma lo sai che vado lì io. vabbè, ma una baguette non fa di nulla a casa, un metro e mezzo è. Il dimetro è manco muro. Però tre di mortadella e mezzo gli ha fatto dire anche cosa. Fai da bravo, un etto e mezzo, non metà. Un etto e mezzo? Ma hai pigliato quelle pistacchi, quei pistacchi volevo calcolare. L'ha giocato un pistacchio e l'ho messo per le piegate. Oia, una baguette, non sai che ti cambi tra piso, oi. Mica mangiugna di io, Issa. E la fede ne mangi lui. No, forse tempo fa, ma adesso no. Assolutamente, quando mangiavo la baguette non toccavo niente io a pranzo, ho capito. È capitato qualche volta. Sono un bel po' che non mangio più questa roba qua. No, io la baguette, sai cosa faccio? Li tolgo le punte perché sono dure. E poi le imbottisco con la mortadella, con il caldo a caldo. Ma non lo faccio più già da un po', lo faccio più prima quando andavo a fare la spesa, la compro e chiudo a Pascoli. Ma le compravo, mi compravo la mortadella, ce la mettevo in mezzo, ma di quella bismara, quella buona al vero, la suprema. E te? E te, Tore, che esci della verità muretto? Questo là, penso che da un po' che non mi hanno affettato, pensa un po'. Questo del pane già lo mangio, però l'affettato sono da parecchio che non ne mangio. Ehi, ma qualche volta avere l'ispirazione di avere, capito, e ora mangiamo. Ah, e tu lì che devi confessarti, che hai detto le bugie. Ho capito, microfono perché mi fa zimare la mano, sei già truffo. Michael. Basta non tenerlo in mano, portarlo qua che c'è il posto. Vuola. Cosa già? Ho detto a portarlo qua che c'è il posto, così non lo tiri in mano. Vedete? Ti ascolti Italia, Nord e Sardegna, cambio. Buongiorno. Qui la propagazione a te. Ehi, avanti, preco. Buongiorno, ici Francia, buongiorno. Ok, facciamo una visita e curta la Sardegna, che sta per la restrizione Sierra Tango, ok? Ok, tous les bons chiffres de Merlin, 08, nord-est de la France. Bonsoir mon ami, je t'écoute très bien. Je m'appelle Jean Delta Romeo de la ville de Sassari, nord de la Sardaigne. Ok Jean, les 51-73 à toi, les bonjours alors. Ici, tu passes très bien. Ok, nickel, impeccable. Nickel, Michel. Bonsoir Michel. Quelle est ta ville? Les Ardennes 08. Ah oui. Je suis 165 BR, nord de Sardaigne. Ok, mais bon matériel. Je je t'entends très bien. La ville est Sassari, Sassari. Oui, oui, ok. Moi, côté belge. Comment t'appelles? Moi, c'est Alphonse. Dì che Alfonso conosce mai bene io. Cosa? Alfonso conosce mai bene. Alfonso. Anche io lo conosco Alfonso. Era in Vegas Adereta, prima adesso si è spostato dall'altra parte, prima era più su. Lo conosco io, vado dal figlio, la Massimo. E adesso lui è in Francia, ci già è fatto il VX. Ah, in Francia. Non è morta anche la moglie. E ci lavorava in Ignazio Spirito Gonzale prima della forza. Già lo so. So tutto. Gli frega il lavoro. Si portava i clienti a casa e la sgavata. Ignazio? Sì. Mi si è aperto la motoria Buroedo in via. Cos'è? Via Capitano mi sembra. Via Monte. Potrebbe essere via Succis. Poi gli ha provato tutti i clienti. E vabbè, comunque Alfonso era bravo, niente da dire. A me me li faceva sempre lui, capiti? Il fratello di cosa? Di Piero Drago. Sì, cappa. Avanti, Tore. Ma è Piero Drago che appena ha fatto. Piero Drago abita a campagna, faceva il porta tutto, e c'ha il baracchino che si è comprato da Bonfonio, però non lo usa mai. C'ha la Firenze 2, non la piazza, si muore al tenito, non c'è mai nessuno. Per forza, poi di la telamanna. Ecco, già c'è una lì senza vederlo. Tu vai al mercato, quando sono lì, però se lo trovi là. Mi ha passato un bel voto, non l'ha già mai avuto. E vuol dire, c'è il giro lavorando. Cosa fa Piero? Il motocarro? Scappa, fa Piero, porta tutto. Quei motocarri che si vedono vicino al mercato, parcheggiati lì, prima c'erano i Breva, non so se ci sono ancora. E poi anche il figlio lo fa uguale, se lo stesso. Se l'ha verniciato nuovo il caso adesso, c'è la verde Piero, prima c'è l'azzurro. Ah, non lo sapevo, che facevo quel lavoro. Ma anche prima, no? Prima faceva muratore. No, prima lavorava, ma non fatto in Cerento, insieme a cognato, no, di Mutri, viene sì, Andrea con la 21. Ah, ho capito. Sì, qualche cosa di edilizia faceva, sì, me lo ricordo. Cappa, di rogero. Sì, ho intanto, io ho il mio telefono, te lo vedo, saluto. Tutto qua. E ci faceva chiamare anche Patatore. Come comunque a Zinzola, è entrato in Zitarito, sì. Prima era magro Piero, me lo ricordo, aveva la vespa. Sì, fumava le nazionali, avevamo quei bacchetti che la Zuglia. Da quando smesse di fumare è diventato un patatore. Davvero? Molta gente quando smette di fumare in grasso, a me non mi ha fatto nulla. E che a me già, se io ho preso un palloncino, io smesso di fumare già da 8 anni. Ma cosa c'è, la portante o il QRM o cos'era la propagazione? Buchi. No, non ce l'hai portante. Io ho già 15 anni che ho smesso. Dore, tu non hai mai fumato, vero? Sì. Prima di entrare a militare, dopo di entrare a militare, lì io ho fumato per un po' e poi ho smesso. Ho smesso anche mi si è gonfiata da ora. Lo butto, da. Mi si è gonfiato e mi hanno ricoverato e poi ho smesso del tutto. Fatto bene. Chi è? Chi è che ha parlato? Ma l'altro ho sentito la voce, tu ci dai già. Io. Ma non è da fuori. No. Mi è sembrato Giulio, tu sei Giulio. Mi è sembrato di vedere un gatto. E allora. Anda bene Meda, dai signori belli, se sono esattamente meno quarto, io non mi sposto, spengo tutto, me ne vado in cucina e mi preparo il caldo fiori a insalata, che sono buoni, dai. Andare, ok, dai, grazie, questo io lo proseguo, ciao Tore, ciao Gianni, alle prossimine, e quando è grande un gelatiscio, basta che mi avvisi, ok, non c'è problema, un giorno prima, perché cioè, potrei avere degli appunti io con altri gelati. Scherzo, ciao, ci sentiamo. Ciao Tony, ciao, ci sentiamo, adesso chiedendo anch'io, ciao Tore, ciao a tutti gli amici che stanno facendo ascolto. Buonasera a tutti, lo più lungo rete esecutivo. Ciao Gianni, ciao Torino, statemi bene. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao. Ciao Tony, ciao Tore.